Ad alta voce, edizione 20 anni. Galatea Ranzi legge Panorama di Tommaso Pincio. Del terzo anno di corrispondenza. Una bottiglia di whisky marca Johnny Walker. Un posacenere sporco con quattro mozziconi, tutti di canna. Un piatto sporco con forchetta. Varie salviette appallottolate. Una felpa grigia, un paio di calze, una spazzola per capelli. Una copia di John Donne Collected Poetry, edizioni Penguin. Un computer portatile. Ottavio Tondi, Quaderni del letto. Maddalena aveva ragione. Non avrebbe saputo dire quale gli piacesse di più. Erano due cose molto diverse, ma gli piacevano entrambe. Anche se le letture di lei prevedevano più possibilità. Se non altro perché a un certo punto lei cominciò a leggere ad alta voce. Le prime volte lei lesse infatti come leggeva lui, in silenzio, ma un giorno, senza preavviso, iniziò a leggere ad alta voce. Lui accennò una protesta perché non voleva che il rituale venisse modificato. Il suo atteggiamento verso il sesso era identico a quello che teneva verso il resto: scansare le novità. Tutto doveva ripetersi. Per lui l'essenza del piacere era questo: ripetizione. Lei gli impedì però di parlare, schiacciandogli la bocca con una mano, mentre con l'altra seguitò a tenere aperto il libro, seguitando a leggere. Infine, esausta dal turbamento, lasciò cadere le braccia e solennemente riparò al suo letto di morte. In quella giornata di primavera ingannevole, non ebbe indecisioni. «Non so, forse sì», le aveva detto al telefono, ma in realtà non aveva bisogno di pensarci. Uscì di casa intorno alle 4. Voleva godersi ancora un po' di sole. Si avviò a piedi verso Trastevere, ma dopo un paio di isolati cambiò direzione. Lei non sarebbe tornata prima delle 7. Disponeva quindi di 3 ore che decise di impiegare vagabondando per la città. In tasca aveva naturalmente Bruce la morta. Non lo tirò fuori, voleva conservarlo per la serata. Si accontentò di riprendere il filo dei ricordi ai quali aveva pensato al mattino. Nonostante il giro lungo, arrivò a casa di lei un quarto d'ora prima delle 7. Non dovette aspettarla davanti al portone, era già tornata. Tutto andò come l'aveva pregustato: la cena, un paio d'ore guardando un film in TV, le chiacchiere dopo il film. Quando giunse il momento, lei non gli chiese cosa avesse deciso. Tastò la tasca della sua giacca e disse: «È un libro breve?» «Sì, lasciami indovinare», e riprese a tastare. «So cos'è!» esclamò nel giro di pochi attimi. «Davvero? E come fai a saperlo?» «Credi sia stupida?» Non capì perché gli rispose a quel modo. Capì però che aveva indovinato. «Che libro sarebbe? Sentiamo!» «Te lo faccio vedere io, che libro è!» Si alzò e andò in bagno. E quando lui la vide ricomparire nel rettangolo della porta con soltanto una maglietta addosso, seppe che lei aveva capito. Maddalena si inginocchiò ai suoi piedi, gli slacciò la cintura e la sfilò via dai passanti per gettarla dietro di sé, in mezzo al salotto, esattamente come la prima notte. Gli sorrise un istante prima di cominciare. Lui restò a guardare la massa dei suoi capelli neri. Glieli carezzò. Lei sollevò il capo e gli domandò: «Non leggi?» Lo fissò con la bocca aperta. «Sei molto bella». Lei accennò una smorfia, sorridendogli ancora. Quindi scosse la testa. Ottavio Tondi lasciò la casa di Maddalena poco dopo le 3:30. Prima di andare, sperò per un attimo che lei gli chiedesse se voleva restare a dormire. Non glielo chiedeva più da parecchio ormai, e non c'era nessun motivo razionale per cui quella notte dovesse venirle voglia di sentire l'ennesimo no. Era anche vero, però, che quella non era stata una notte come le altre. Non era mai accaduto che facessero sesso senza leggere, ma soprattutto non le aveva mai detto che era bella. Percorrendo le strade deserte, Tondi rifletté sul senso di tutto ciò. Il complimento gli era uscito d'impulso, un moto che sul momento gli era parso misterioso. Nei momenti immediatamente successivi era stato assalito da una sensazione strana, una specie di senso di colpa. Ripensò alla smorfia di lei e comprese ciò che nel profondo già sapeva. Quel "sei molto bella" voleva dire "ti voglio bene", se non di più. La natura del loro rapporto stava forse cambiando? Cambiando per lui, cioè. Stava forse pensando a Maddalena in modo diverso? In tutti quegli anni si era tenuto a distanza da qualsiasi complicazione sentimentale, ripetendo a se stesso che leggere significa chiudersi fino all'estremo, non si può essere abbastanza soli quando si legge e non si può avere abbastanza silenzio attorno e la notte non è mai abbastanza notte. Si legge soli. E anche quando non si legge, se si è consacrati alla letteratura, la testa seguita a dimorare nei libri, distaccata da tutto. Cosa avrebbe potuto dare a una donna? Di certo non mettere su famiglia, evoluzione naturale di un amore, nonché eventualità che lui paventava in maniera assoluta. La spaventevole immagine di se stesso in penosa ricerca di concentrazione e silenzio mentre un infante frigna per casa rappresentava però soltanto una parte del problema e nemmeno la più essenziale. In effetti, pur non ammettendolo apertamente, quella sua difesa a oltranza del celibato non era che una vendetta ulteriore, la definitiva realizzazione di un piano il cui primo passo era stato l'intervista al presente. Perché il padre pagasse fino in fondo le sue colpe, non bastava il disfacimento dello studio di consulenza fiscale. Bisognava pure che la schiatta dei Tondi si estinguesse. Bisognava che il figlio fosse l'ultimo degli Ottavio. Soltanto così la vendetta avrebbe avuto un senso, un coronamento. Ma adesso, a distanza di anni, importava qualcosa tutto ciò? Che senso aveva punirsi ancora a quel modo per punire suo padre? Stava passando davanti al San Callisto. In quell'ora notturna il bar era chiuso. Soltanto un paio di persone sostavano accanto alle saracinesche abbassate. Pensò che quel bar era uno dei pochi locali del centro che avesse ancora la dignità che un tempo avevano i bar, e questo malgrado fosse costantemente invaso da avventori di ogni tipo. Per il resto, la città si era ormai arresa ai nuovi flagelli. Ovunque soltanto locali per i più giovani, quelli che lui chiamava nuovi stronzi. Bar che non erano più bar per via di una modernità pretenziosa e oscena, patetica imitazione di locali stranieri, di vere capitali. Oppure posti dall'identità indefinita, pensati per turisti che ormai giungevano soltanto in massa, posti che avrebbero potuto essere ristoranti o tavole calde o pub o tutte queste cose assieme senza esserne nessuna. Non frequentando locali di alcun genere, a parte il chiosco di Piazza Vittorio, simili mutazioni nel tessuto urbano avrebbero dovuto restargli indifferenti, e di fatto lo erano. Ma a volte gli capitava di pensarci e rammaricarsene perché rappresentavano la punta di un iceberg che lo inquietava. Assieme a quelle brutture andava aumentando un nuovo tipo di umanità, sempre armata di un dispositivo portatile, in costante contatto con la cosa fluida. Persone la cui principale preoccupazione sembrava quella di avere qualcosa da guardare o digitare. In quelle mattonelle luminose che la gente portava sempre con sé, scorgeva la fine di un'epoca, la sua. alle sue orecchie, le suonerie di quegli apparecchi, che fosse un trillo odioso o una cantilena idiota o l'insensata imitazione di un rumore di altra natura, si somigliavano tutte. Gli dicevano tutte la stessa cosa: hai fatto il tuo tempo. E avevano ragione. Doveva riconoscerlo. Tra le considerazioni di quella mattina, una in particolare gli stava tornando alla mente. Oggi, un giornale come Il Presente non si sarebbe sognato di intervistarlo. A stento e forse anche con fastidio pubblicavano ancora recensioni di libri. Lo stesso Gnoli era scomparso dalla circolazione. Chissà che fine aveva fatto. Sulle pagine culturali furoreggiavano firme come Loretta Buia, un personaggio sinistro la cui qualità distintiva pareva essere quella di far passare commenti vacui e sgradevoli per arguzie. Fustigava il prossimo per la mancanza di senso del ridicolo, perché in quella mancanza individuava la più imperdonabile delle colpe. Recentemente anche Tondi era stato oggetto delle sue dissacranti attenzioni. Fatemi capire, applaudire una persona perché si è portata un orrendo divano da casa è un nuovo modo per dire ciccione è bello? Tondi non se l'era presa più di tanto. Fosse accaduto una decina di anni prima, avrebbe perso il sonno per settimane intere, rodendosi il fegato. Ma oggi trovava quasi normale, perfino giusto, che qualcuno si facesse beffe di lui e di quel che rappresentava. D'altronde, sempre più spesso si sorprendeva a pensare una scorata constatazione di Pavese: non apro i libri con quella viva e ansiosa speranza di cose spirituali che, malgrado tutto, un tempo sentivo. Per Tondi era quasi lo stesso. Leggeva ancora ogni giorno, per ore, e anche con godimento. Tuttavia, qualcosa era cambiato, o forse era sbiadito. Nel piacere che provava ora, vi era un che di sterile. La miserevole piccola gioia offerta dal perpetuarsi delle abitudini. Non si domandò se per lui, come per Pavese, la giovinezza fosse finita. Non ne aveva bisogno. Sapeva bene che lo era e la cosa non lo intristiva più di tanto. Del resto, vista la vita che aveva condotto e conduceva, importava davvero che non fosse più giovane e che i tempi fossero cambiati. Di tutte le cose e i pensieri di quella strana giornata, ciò che adesso più gli pesava era l'immagine di poco prima, la smorfia di Maddalena. Non ci voleva molto a capire il significato di quella smorfia. Durante tutta la loro relazione, lui l'aveva tenuta a distanza. L'aveva trattata con gentilezza e anche con un certo affetto, ma l'aveva tenuta a distanza. Si era tuttavia convinto che lei l'amasse. Non aveva concrete ragioni per pensarlo, non di meno ne era convinto. Forse parlare di amore era oggettivamente eccessivo, ma sul fatto che lei attendesse soltanto un suo cenno per iniziare una storia, una qualche forma di convivenza o di rapporto più consistente, non potevano esserci dubbi. Questa certezza, sulla quale lui si era adagiato quasi senza rendersene conto, gli era stata appena sottratta. «Cosa pensavi?» gli aveva detto Maddalena con quella smorfia. «Che ti avrei atteso in eterno? O peggio ancora, fino al giorno in cui ti sarebbe mancata la terra sotto i piedi? Tu credi di avere scoperto di amarmi, ma non è così. Non mi ami affatto. Può darsi che tu mi voglia un po' di bene. Dico può darsi, ma la verità è che hai paura. Soltanto questo hai scoperto, che hai paura. Paura di quel che sei stato e di quel che sarai. Paura di non avere più le forze e di restare solo». Giunto in piazza Trilussa, non più al riparo dei vicoli di Trastevere, Tondi fu travolto da un vento gelido. Si strinse nella giacca, pentendosi di essersi vestito come fosse davvero primavera, pur sapendo che sarebbe rientrato a notte fonda. Era stato sciocco anche in questo, e mentre si malediva e si sfregava le braccia in attesa che il semaforo diventasse verde, una mano sbatté sulla cosa di carta che aveva con sé. Bruges la morta. Lo tirò fuori dalla tasca, più per un riflesso istintivo che altro, perché in effetti non aveva chissà quale voglia di leggere. Per dirla tutta, non ne aveva nessuna. Ma avendo ancor meno voglia di seguitare in quei pensieri, in preda all'ansia, al passato, al freddo notturno, aprì il libro. Il giorno declinava, oscurando i grandi corridoi della casa silenziosa. Si interruppe subito, sopraffatto dal ricordo cui era legata quella pagina. Soltanto ora realizzò in maniera plastica e ineludibile di aver appena trascorso l'ultima serata insieme a Maddalena. L'aveva perduta. Non avrebbero letto più nulla assieme. Capì che se domani l'avesse chiamata, lei si sarebbe negata con una scusa e così avrebbe fatto nei giorni successivi, finché lui non si fosse stancato. Sentì una voragine aprirsi dentro di sé e il panico lo assalì. Per un istante considerò l'ipotesi di tornare indietro. Sapeva che se voleva tentare di rimettere a posto le cose doveva agire adesso, ma l'immagine di se stesso che implorava al citofono lo bloccò. Non aveva mai fatto un gesto del genere prima d'ora, né con lei né con altre donne. Temeva di perdere il controllo non appena lei si fosse rifiutata di aprirgli, dicendogli che era stanca, che non c'era niente di così urgente da discutere, niente che non potesse aspettare domani. Era scattato il verde per i pedoni e Tondi attraversò il Lungotevere, riprendendo a leggere. Senza occupazione, solitario, trascorreva l'intera giornata nella sua stanza. Prima di imboccare Ponte Sisto, dovette interrompere nuovamente perché c'era da scavalcare una catena che impediva l'accesso ai veicoli. Fu allora che li vide. Erano dall'altra estremità. Avevano appena oltrepassato la loro catena e procedevano nella direzione opposta alla sua, verso di lui. Saranno stati 3 o 4, forse più. Il buio della notte li confondeva in un'unica massa indistinta, una macchia oscura che camminava scomposta ma compatta, avvolta dal gelido alone rosato dell'illuminazione stradale. Avevano qualcosa di sinistro. Tondi si fermò a osservarli ed ebbe una specie di presentimento. Li guardavo, avrebbe scritto a Ligeia Tissot nel 9° anniversario di quella notte fatale. Guardavo quell'ombra nera, quella specie di animale notturno che avanzava, e qualcosa, una parte di me, mi disse che era il caso di riporre il libro. Non saprei dire cosa mi abbia messo in allarme. Mettiamola così. Per qualche secondo ho avvertito la netta sensazione di fiutare un pericolo. Nulla di razionale. Ma infilare in tasca la cosa di carta o cambiare strada, proseguendo per il Lungotevere fino al prossimo ponte, non mi sarebbe costato nulla. E invece? Invece ho fatto l'uomo evoluto, razionale, e mi sono inoltrato per Ponte Sisto, ricominciando a leggere. L'inquietudine m'era però rimasta e non riuscivo a concentrarmi. Non andavo oltre una frase che si trovava nella prima pagina di Bruges la morta. Leggeva un po'. Qualche rivista, qualche vecchio libro, fumava molto, fantasticava davanti alla finestra aperta nei giorni grigi, perso nei suoi ricordi. Viveva così da 5 anni ormai. Arrivato a ormai, mi bloccavo per l'agitazione e dovevo ricominciare. Camminavo a testa bassa e anche se tenevo gli occhi incollati alla pagina, cercavo di non perdere di vista quei giovani che venivano verso di me. E stranamente, più si avvicinavano, più le loro sagome oscure diventavano indistinte, compatte, animalesche. A poco ho iniziato a udire i loro rumori, un vociare greve, gutturale, sgradevole. Li definisco rumori perché le loro voci erano come le loro sagome, versi confusi, bestiali, con un rimestare di brutti suoni che non si articolava mai in un linguaggio comprensibile. Non ho distinto una sola parola di ciò che dicevano fino a quando uno di loro ha gridato. In questa lettera, come del resto in tutta la corrispondenza di Tondi con Ligeia, il nome di Maddalena è assente. Fatta salva questa omissione, i cui motivi chiunque può immaginare, il racconto è attendibile, presentimento incluso. Raccontando ad altri quegli stessi fatti, Tondi fornì versioni diverse soltanto per quanto concerne la determinazione a proseguire per la sua strada. Ognuna di esse sembra contenere un fondamento di verità, ed è quindi probabile che in quell'uomo provato da una giornata difficile abbiano convissuto sentimenti contrastanti. Il bisogno impellente di reprimere la paura deve essersi mescolato a una forma di stanchezza interiore, una vaga voglia di farla finita. E frattanto che lui seguitava a leggere, o piuttosto cercare di leggere camminando, gli arrivò il grido di uno dei giovani: «Scemo!». Possiamo bene immaginare l'impressione che diede. Al branco che si avvicinava sarà sembrato una specie di prete immerso in un breviario, o magari soltanto un tipo strambo e svampito, uno scemo, per dirla nel loro linguaggio. E difatti, poco dopo, un altro giovanotto, o forse lo stesso, sempre urlando, disse: «Ma cosa ti leggi, scemo?». Tondi non ebbe bisogno di sollevare lo sguardo dal libro per sincerarsi che ce l'avevano con lui. All'urlo fece eco un coro, una gragnola di insulti, tutti inequivocabilmente rivolti al suo indirizzo. Immaginiamoci allora Tondi che tira dritto, camminando e leggendo, rallentando un poco il passo, ma non più di tanto. In frangenti come questi, soltanto il sangue freddo può venirti in soccorso. È una guerra di nervi, di contegno. Se mostri il minimo cedimento, sei finito. E poi, che mai avrebbe ottenuto rallentando? Loro incedevano baldanzosi. Avrebbe solo rimandato di qualche secondo la collisione. Girare i tacchi per tornare di corsa da dove era venuto sarebbe stato ancora più inutile. Non aspettavano altro che un suo gesto, una provocazione, un pretesto per saltargli addosso. A Tondi non restava che calcolare i metri tra lui e loro, o provare a distinguere il numero di quei bulli. D'altronde, neppure il capire quanti fossero gli sarebbe stato di grande aiuto. Non aveva mai menato in vita sua. Si fosse trattato di uno o mille, avrebbe comunque avuto la peggio. La sola altra cosa che potesse fare era maledire di trovarsi proprio su Ponte Sisto, ai tempi infame rifugio estremo di cortigiani in disgrazia. Si fossero incrociati poco dopo o poco prima, in Trastevere per esempio, avrebbe potuto svoltare in un vicolo, o chiamare aiuto, o suonare a un citofono. Su quell'accidente di ponte non c'era nulla, a parte lui e loro. Nessun vicolo laterale, nessun portone, soltanto il fiume freddo e nero che scorreva qualche metro più sotto. In effetti, avrebbe dovuto maledire l'inverno che aveva finto di finire, il vento siberiano. In altre stagioni, anche di notte, su Ponte Sisto, bivaccavano sfaccendati di vario genere, venditori ambulanti, spacciatori, turisti, innamorati. Ma che valeva recriminare? Tra lui e loro c'erano soltanto 5 metri adesso. Il vento era così gelido e teso che sembrava portarsi via gli insulti minacciosi della marmaglia oscura, sebbene non si portasse via alcunché. Tondi dovette udire tutto benissimo. Li udiva e li guardava, ma senza staccare gli occhi dal suo libro, da Bruges la morta, fingendo che la lettura l'avesse rapito al punto da non accorgersi che ce l'avevano con lui. Adottava una tattica kafkiana, la tattica dell'insetto che se ne sta immobile, pietrificato al cospetto della minaccia, nella speranza insensata che questa prosegua per la sua strada come se niente fosse. Giungiamo così al momento in cui è questione di un paio di passi appena. Se uno di quegli sconsiderati non si scansa, Tondi dovrebbe fendere il branco, sfiorare o urtare quella gente. Spostarsi quanto più possibile verso uno dei lati è fuori discussione. Ponte Sisto è stretto, e se qualcosa andasse storto, basterebbe una spinta per farlo volare dal parapetto giù nel nero Tevere. L'opzione comporta inoltre che Tondi sollevi lo sguardo, che finga di avvedersi dell'ostacolo deviando quel tanto che serve, così facendo però tanti saluti alla tattica dell'insetto. A quel punto niente giustificherebbe che lui non senta quanto gli vanno urlando. Giunto a quel momento, Tondi non ha dunque più scelta. Deve avanzare. E così fa. È certamente in preda al panico. La paura che poco prima Maddalena gli ha rimproverato, percorre ogni fibra del suo essere. Possiamo immaginarlo pensare: hai ragione, Maddalena, ho paura. Vedo le pagine tremare, e non per il vento, e prego con tutta l'anima che non lo vedano loro, il tremore di queste pagine. Leggeva un po', qualche rivista, qualche vecchio libro, fumava molto, fantasticava davanti alla finestra aperta nei giorni grigi, perso nei suoi ricordi. Viveva così da 5 anni ormai. 5 anni. Gli stessi trascorsi dalla prima volta, quella in cui lesse quelle stesse parole a casa di Maddalena. Cosa fa Tondi a questo punto? A un passo dal branco? Solleva la testa e li guarda, come soltanto ora si rendesse conto della loro presenza. «Ho paura, ma ti amo», dice con un filo di voce, rivolgendosi a Maddalena. Quindi scarta bruscamente su un lato e riprecipita nella lettura. Non riesce a crederci, nessuno l'ha toccato. Manca poco che non pianga per il sollievo, la felicità. Avanza per una decina di passi, per qualche secondo sente soltanto il soffio del vento gelido, poi, dal branco, riprendono a gridare, con violenza maggiore di prima. Legge ancora, lo scemo. T'ammazziamo di botte, ti pestiamo a sangue, t'ammazziamo di botte, ti pestiamo. È a questo punto che la paura ebbe la meglio. Tondi sapeva che non avrebbe dovuto farlo, ma si mise a correre. Mancavano soltanto pochi metri alla fine del ponte, e se la fortuna l'avesse assistito, col semaforo verde o la strada sgombra, avrebbe potuto attraversare il Lungotevere e provare a seminarli infilandosi nei vicoli del rione Riga. Alla peggio avrebbe potuto fermare una macchina, chiedere aiuto. Tondi non seppe dire se lo inseguirono già allora, non si voltò a guardare. Sentì le grida feroci, però. Non smettevano. «Ma dove corri, scemo? Ti prendiamo! T'ammazziamo!» Fu soltanto nel guadagnare la fine del ponte, quando pensò di averla scampata. Soltanto allora Tondi si voltò e nel voltarsi agganciò col piede la catena all'imboccatura del ponte. Si schiantò a terra, un impatto tremendo, e fu appena l'inizio. Di lì a pochissimo si sentì afferrare per le caviglie. Lo trascinarono lungo il selciato, sopra i sanpietrini umidi e duri, riportandolo al centro del ponte, dove lo picchiarono. Ricordo che mentre mi picchiavano pensavo una cosa sola, scriverà 9 anni più tardi a Ligeia Tissot. Perché non svengo? Perché non perdo i sensi? Poi sono svenuto. Ottavio Tondi fu trovato intorno alle 6, un paio d'ore dopo il pestaggio, da una pattuglia della polizia municipale. Era irriconoscibile, una maschera di sangue, più morto che vivo. Riprese i sensi per un solo istante, il tempo di dire una parola: sposami. La disse alla vigilessa china sul suo corpo devastato, anche se non era a lei che si rivolgeva. Quindi, provvisoriamente, ritornò cadavere. Galatea Ranzi ha letto Panorama di Tommaso Pincio, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.